Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17:08 minuti, buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Puntata di Focus Economia che terminerà subito prima del giornale radio delle 18, ve lo ricordiamo ancora una volta perché dedicheremo uno speciale di mezz'ora a quello che sta succedendo nel mondo arabo, agli assalti alle ambasciate di queste ore, alle violenze di queste ore, tutto questo dopo le 18 naturalmente. Puntata più breve nella quale affronteremo naturalmente tutti i temi all'ordine del giorno, parleremo ovviamente di mercati che hanno reagito, ve l'abbiamo già raccontato negli aggiornamenti di borsa, alle decisioni di ieri della Federal Reserve, che ha deciso di continuare a sostenere l'economia, questa volta più dal punto di vista dal lato immobiliare, per farla molto semplice e molto brutale. Di tutto questo, come si diceva, i mercati hanno beneficiato paradossalmente più quelli europei che quello americano. Il Dow Jones guadagna lo 0,44%, il Nasdaq lo 0,97%, lo Standard & Poor's mezzo punto percentuale. In parte probabilmente avevano già scontato i mercati una mossa decisa, almeno quelli americani, della Fed. Non così forse gli europei. Parigi guadagna 2 punti percentuali, Francoforte l'1,27, Milano il FTSE MIB guadagna il 2% e il FTSE OSHER altrettanto, con in evidenza molti titoli finanziari. Naturalmente sarà uno dei nostri temi, uno dei temi che toccheremo. Parleremo di Fiat. Naturalmente la vicenda fa molto discutere, come si è posizionata Fiat rispetto al famoso piano Fabbrica Italia, che era il grande piano di investimenti dell'azienda. Ebbene, ha detto sostanzialmente Fiat che non c'è nulla, come dire, di prefissato, che di fatto non c'è nessun obbligo rispetto al piano Fabbrica Italia. Di questo parleremo, passeremo dalle 4 ruote alle 2 ruote con una fiera importante, EICA 2012, che si apre, dedicata al ciclo e motociclo a Verona. E poi parleremo di conti delle regioni, ne avrete letto tutti, ne avrete sentito nei nostri giornali radio di quello che sta succedendo nella regione Lazio, qualcosa vi abbiamo già accennato ieri in Focus Economia. C'è un libro molto interessante che è uscito nei mesi scorsi che riguarda proprio i conti delle regioni, la casta delle regioni, e toccheremo questo tema, le notizie in breve di oggi. Numero per intervenire in diretta è sempre il 349-238-6666 via SMS. Oro in rialzo a $1,774,96 l'oncia. Sale il petrolio a New York arriva fino a toccare i $100 al barile, poi a $99,42. Dati negativi invece dall'America, dove la produzione industriale in agosto è scesa dell'1,2%, il calo maggiore dal 2009, mentre invece in agosto arriva un dato positivo dal lato delle vendite al dettaglio, più 0,9%. Sull'inflazione, sempre in America siamo, più 0,6%, in linea con le attese, superiore alle attese l'indice di fiducia dei consumatori a 79,2 punti. Le vicende europee, partendo dal presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che dice che l'Europa sta già vedendo positivi risultati dall'annuncio della BCE di essere pronta ad acquisti illimitati di titoli di Stato emessi da paesi dell'Eurozona, lo dice in un'intervista al giornale tedesco Süddeutsche Zeitung. È stato invitato, tra l'altro, Draghi a parlare al Bundestag per spiegare il suo piano, e però il gruppo parlamentare dell'Unione di CDU e CSU al Bundestag, che sostiene la cancelliera Angela Merkel, si è detto contrario a questa eventualità. Potrebbe ingenerare l'impressione errata che la BCE sia in un rapporto di dipendenza nei confronti della politica. Dice comunque Draghi che c'è un lungo lavoro ancora da fare. E ancora che l'attivazione del piano antispread richiede strette ed efficaci condizioni, ma comunque ora possiamo essere più ottimisti. commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn al termine dell'Eurogruppo dice che Italia e Germania vanno in una buona direzione e ribadisce il ministro dell'economia Vittorio Grilli che per l'Italia abbiamo già un piano di scadenze ben dettagliato, non c'è ulteriore bisogno, anzi quello che dobbiamo fare è impegnarci continuamente per portarlo a termine. Sempre l'Europa in crisi, ma in questo caso la Spagna. Il ministro delle finanze di Madrid, Luis de Guindos, parla all'Eurogruppo. Nei prossimi giorni si saprà l'entità degli aiuti al sistema bancario spagnolo, che sembrano in linea con le attese, dice ancora de Guindos. Per la Spagna ora è importante il rispetto degli impegni. Parleremo anche di tutto ciò che riguarda i problemi del settore bancario. Come sapete, nei prossimi giorni si saprà l'entità degli aiuti al sistema bancario spagnolo, della necessità di capitale. Posso dire che i dati sembrano in linea con le attese. Analizzeremo anche la situazione della congiuntura spagnola e i dati sui conti pubblici. Ora, la cosa più importante per la Spagna è rispettare gli obiettivi sui conti pubblici e portare a termine il programma delle riforme, più che parlare della possibilità o meno di un salvataggio. Penso che sia fondamentale in questo momento capire gli elementi e le linee dell'intervento della Banca Centrale sul mercato secondario. Il Banco Centrale Europeo per l'intervenzione nel mercato secondario, no? Così il ministro delle finanze spagnolo De Guindos. La BCE, tra l'altro, notizia poi smentita, avrebbe contattato il Fondo Monetario Internazionale per un piano di aiuti da 300 miliardi di euro alla Spagna, un programma di acquisto di titoli di Stato anche in questo caso, notizia poi smentita anche dal Fondo Monetario Internazionale con la direttrice generale Christine Lagarde. In calo lo spread tra titoli di Stato italiani e tedeschi intorno ai 330 punti, il tasso sul decennale è sotto il 5%, il differenziale della Spagna invece in crescita a 407 punti. E veniamo al primo tema di questa giornata e parliamo di Fiat. Chiedete intanto, a proposito della crisi dell'Europa, al 349-238-6666, se questa strategia di acquisti illimitati di BTP e di bonus, insomma di obbligazioni dei paesi in difficoltà, non potesse essere attuata prima della crisi. Dice, ci voleva Draghi. Il problema è evidentemente proprio questo, insomma, che evidentemente ci voleva Draghi. Forse la crisi in parte è stata sottovalutata e forse le resistenze tedesche nella fase nella quale la crisi non sembrava così intensa come ci è parsa nell'ultimo anno hanno avuto maggiore gioco, molto semplicemente. È stata fondamentalmente una questione politica, perché non dirlo? La vicenda Fiat. Il piano di sviluppo della Fiat Fabbrica Italia è ormai superato, perché da quando nel 2010 fu annunciato le cose sono cambiate, il mercato dell'auto è crollato. Lo ha detto l'azienda, precisando che il nuovo piano sarà reso noto ad ottobre e che Fiat farà scelte responsabili. Col piano, lo ricordiamo, erano previsti 20 miliardi di investimenti in 5 anni in Italia. Ricorda ancora Fiat che da ottobre scorso, dell'anno scorso, aveva annunciato che non avrebbe più utilizzato l'addizione Fabbrica Italia perché molti l'avevano interpretata come un impegno assoluto, e tale non è. Andrea Malan del Sole 24 Ore, che sempre ci accompagna in queste vicende, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Andrea, era qualcosa di atteso un comunicato di questo genere? Dunque, sì, diciamo di sì, cioè che Fabbrica Italia non esista più non è una notizia, anche se tutti noi come Sole 24 Ore compreso, ci abbiamo fatto dei titoloni. Non è una notizia perché, come hai detto tu, Fiat già parecchi mesi prima, direi alla fine dell'anno scorso, in un comunicato piuttosto stizzito in risposta a delle domande della Consob, aveva detto che non si poteva più usare quella definizione, per il motivo che tu hai citato. Era attesa perché Marchionne stesso in un'intervista recente aveva detto che, data la crisi, in Italia ci sono 2 stabilimenti su 5 di troppo se l'Italia non riuscirà a esportare auto verso gli Stati Uniti. Quindi diciamo che la apparente sorpresa, le reazioni che stiamo vedendo in questi giorni, sono probabilmente anche figlie del fatto che al mondo politico a volte fa comodo dimenticarsi di certi problemi e affrontarli solo all'ultimo momento. Come sappiamo, questo ultimo momento è oramai sempre più vicino. La Fiat ha ribadito che alla fine del mese prossimo, il 30 di ottobre, fornirà l'aggiornamento del famoso piano del 2010, appunto in relazione al fatto che, come hai detto all'inizio, il mercato è cambiato, la situazione è cambiata. Va detto una cosa che vorrei osservare, cioè che questo famoso piano, non tanto al di là del piano Fabbrica Italia, le ipotesi su cui si basava il piano presentato nell'aprile del 2010 a Lingotto erano apparse, dal punto di vista del mercato europeo e della quota di Fiat, sin dall'inizio estremamente aggressive, quando, per non dire ottimistiche, per non dire quasi irrealizzabili. A tutti gli analisti che noi avevamo interpellato, e sono andato a riprendere, solo 24 ore l'aveva scritto 2 giorni dopo la presentazione. Faccio solo un numero: le ipotesi sul mercato europeo non erano troppo ottimistiche, anche se poi non si sono rivelate a posteriori. Si pensava di passare da 14 milioni e 4 di auto vendute nel 2009 ai 16 del 2014 a fine piano, quindi un più 10%, che significava un ritorno ai livelli pre-crisi. Questo ritorno non solo non c'è stato, come sappiamo, ma quest'anno il mercato europeo potrebbe chiudere sotto quota 13 milioni, quindi c'è stato un grosso calo. Ancora peggio è andata all'Italia, si pensava di poter passare da 2 milioni e 2 a 2 milioni e 4 e sappiamo che quest'anno si parla addirittura di solo 1.400.000 auto vendute, con un ritorno alla fine degli anni 70. Sicuramente quindi c'è stato un crollo del mercato, ma in questa, anche ipotizzando che il mercato fosse andato nelle previsioni, Fiat pensava di aumentare la propria quota in maniera significativa, da poco meno del 9 a quasi il 12% nel mercato europeo, vendendo 600.000 macchine in più in Europa, una performance che sarebbe stata difficilmente ottenibile anche nelle ipotesi migliori. Detto questo, è chiaro che il crollo del mercato europeo e soprattutto di quello italiano hanno dato un forte contributo e siamo qui a questo punto ad aspettare che il 30 di ottobre la Fiat spieghi cosa intende fare. Naturalmente. Sentiamo brevemente Giorgio Airaudo, responsabile auto della FIOM CGL, intervenuto questa mattina alla telefonata di Canale 5. Marchionne vuole le mani libere, non vuole impegni in Italia, sta spostando l'azienda altrove e questo gli è consentito da una classe dirigente di questo paese che ha lasciato soli i lavoratori. Guardi che quest'anno la Fiat farà fatica a produrre 430.000 vetture e 430.000 vetture si fanno in una sola fabbrica. A Melfi il record di produzione è stato 450.000. Se non si fanno investimenti, se non si portano prodotti, si determina una situazione a presente di inevitabilità, la tipica situazione italiana. Ci abbiamo provato, in verità si è fatto poco o niente e poi tutto diventa ineluttabile. Bisogna che il governo si assume la responsabilità, che difenda l'Italia, che difenda il saper fare l'automobile. Marchionne non può continuare a fare lui l'esame al paese, dobbiamo farglielo noi. Allora, Andrea Malan, c'è chi scherza scrivendoci al 349-238-6666 dicendo il 30 ottobre Fiat presenterà il piano Fabbrica America. Certo, sicuramente, diciamo, quello l'ha già presentato questa settimana, cioè lunedì, ai concessionari della Chrysler, ai quali sono stati mostrati, hanno detto, tra modelli nuovi e nuove versioni, aggiornamenti, eccetera, 66 novità per i prossimi 2 anni. È chiaro che Marchionne è un dirigente, diciamo… E in Italia di modelli ne sono usciti ben pochi, invece… In Italia di modelli ne sono usciti molto pochi, quest'anno ne sono usciti 2, cioè la Panda nuova che è prodotta a Pomigliano, lo ribadiamo perché comunque la versione precedente era prodotta in Polonia e il modello è tornato a Pomigliano rianimando lo stabilimento in campagna, anche se purtroppo sappiamo anche che per andamento del mercato, già dopo qualche mese anche Pomigliano in parte in cassa integrazione. Il secondo modello, purtroppo aggiungo, è la 500L a 5 posti, che però viene prodotta in Serbia. Viene prodotta da uno stabilimento serbo, Fiat ha preso questa decisione nel 2010, inizialmente doveva andare a Mirafiori, e poi Marchionne ha deciso di spostarla lì, in parte diciamo rientrando nell'ambito della sua diatriba con i sindacati, in parte anche per gli aiuti che il governo serbo ha offerto per finanziare l'investimento. Chiaramente. Ultimissima domanda, ti chiedo di essere molto molto breve, Andrea. C'è chi ha detto, leggendo il comunicato, insomma, vorrebbero un po' le stesse condizioni della Serbia, insomma, vorrebbero che lo Stato ci mettesse mano. Non lo so, e credo che in questo momento, con un mercato così depresso, non cambierebbe forse tantissimo. Diciamo che anche lo Stato sicuramente, se fornisse degli aiuti, credo che farebbero un po' cambiare il conto economico, bisogna però dire che non contribuirebbe di per sé a far vendere le automobili sul mercato. Come ripete spesso Marchionne, alcuni dei concorrenti che hanno investito di più sono comunque molto in rosso e anzi rischiano forse anche più di Fiat. Certo è che nel medio-lungo periodo la posizione di Fiat Auto in Europa sul mercato senza investimenti non potrà essere mantenuta. Grazie, grazie ad Andrea Malan del Sole 24 Ore per essere stato con noi e come sempre per averci chiarito qualche punto per quanto riguarda le strategie di Fiat e delle aziende automobilistiche. Noi dalle 4 passiamo alle due ruote. Allora, che cosa succede? Succede che domani a Verona inizia EICA 2012, la 70ª edizione dell'Esposizione Internazionale del Ciclo. Sono molte le novità che verranno presentate in anteprima nazionale. Ci sono, naturalmente c'è di tutto, insomma ci sono le biciclette, ma ci sono anche i componentisti. È presente anche il più grande produttore di selle, che detiene il 25% della produzione mondiale. In Italia si producono 2 milioni e mezzo di biciclette. Tutto il mercato bici, accessori, componentistica e abbigliamento vale circa 1,3 miliardi di euro, quindi non propriamente bruscolini. Saluto Antonello Montante, che è presidente di Confindustria Sicilia, vicepresidente di Confindustria, ma in questo caso presidente del gruppo Montante, che è un importante gruppo del settore, soprattutto per quanto riguarda l'alta gamma. Montante, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. Allora, ci aiuta a capire lo stato del settore? Ma è un settore oggi che tendenzialmente la crisi diciamo, che attanaglia il manufatturiero italiano è in controtendenza e quindi in qualche maniera sta facendo lezioni anche in tutta Europa. Noi stiamo esportando moltissimo, il settore esporta molto, ma tutte bici d'eccellenza. Non siamo bravi in Italia a produrre prodotti economici, quindi ci sono i paesi low cost come la Cina, come Taiwan, che in qualche maniera sono molto più bravi di noi. Ecco, questa è la dimostrazione che l'eccellenza italiana, quindi in qualche maniera i famosi Italian Style, ci premia ancora una volta, quindi in qualche maniera siamo molto quindi soddisfatti. È un po' il paradigma, lo specchio, l'espressione di quello che è il made in Italy, cioè produzioni di alta qualità appunto e magari anche alte di gamma anche dal punto di vista del prezzo, ma non siamo sul mercato con le produzioni di massa, ecco, per così dire. Assolutamente no, per questo siamo eccellenze nel mondo e siamo in qualche maniera considerati uno dei modelli a 360 gradi più importanti, nel senso che le bici italiane copiano quasi la moda italiana, quindi è il trend dei grandi stilisti. Oggi un ricco americano compra un bel orologio, compra una bella borsa, ma esce e compra una bici come se fosse un capo d'abbigliamento, e sono quasi tutte italiane le bici vendute nel mondo d'eccellenza. Tant'è vero, non è un caso che nel 2011 il nostro export è stato assorbito per il 95,2%, l'export complessivo, insomma, delle merci di tutto il settore è stato assorbito dall'Unione Europea e quindi evidentemente da un mercato maturo, da un mercato non a basso costo. Ancora qualche numero: nel nostro paese ci sono 657 fabbriche in crescita del 2,5% rispetto al 2010. Ecco, per quanto riguarda la vostra azienda, Montante, le cose come stanno andando? Ma noi stiamo andando molto bene, in qualche maniera siamo stati pionieri del prodotto d'eccellenza. È un'azienda nata 80 anni fa con mio nonno e oggi riproduciamo quel know-how, quel modello, quello delle nicchie di mercato, quelle nicchie di mercato dove in qualche maniera viene fuori da una ricerca, da una prototipazione, poi in qualche maniera esce fuori un modello, i migliori modelli, quindi in qualche maniera accomuna un binomio di design, stile e qualità, di altissima qualità. Oggi stiamo andando molto bene, la nostra produzione ed export, quindi vende il prodotto italiano, il prodotto interno. Che quota avete di export rispetto alla produzione? L'80% è export, il 20% è di produzione interna, quindi sul 100% 80 estero e 20 interno. Benissimo. E un'ultima domanda: che cosa si aspetta, diciamo, per il settore in generale, per l'azienda, per insomma, per il 2013? Devo dire che è interessante il fatto che il settore abbia risentito poco della crisi, se si considera che appunto il numero di fabbriche in Italia è cresciuto del 2,5%, se non sbaglio, e nonostante appunto la contrazione dei consumi in tutta Europa sia piuttosto forte. Che cosa si aspetta per insomma, questa fine di 2012 e per il 2013? Ma nel 2013 abbiamo delle simulazioni di crescita addirittura del 4% della produzione italiana, quindi in qualche maniera esce fuori una domanda prevista molto più alta dell'attuale. Si arriveranno ai 5 milioni di bici da vendere nel 2013, quindi ci sono buoni presupposti. Io chiederei, seguendo al governo italiano, chiederei agli enti locali di concentrarsi più sulle piste ciclabili, perché questo potrebbe aiutare non solo a far crescere il PIL del paese puntando su un prodotto così importante, ma in qualche maniera andremmo a risparmiare in termini proprio di rispetto per l'ambiente, rispetto per l'ecologia. Grazie ad Antonello Montante, grazie. Presidente di Confindustria Sicilia, vicepresidente di Confindustria, presidente del gruppo Montante, del quale ci piace ricordare, visto che su questo Radio 24 non si è mai tirata indietro nel far battaglie, anche il forte impegno anti-racket che ha sempre portato avanti. Grazie Montante, buonasera. Grazie a lei, buonasera. Ci scrivete a proposito di Fiat. Allora, qua nessuno invocava aiuti di Stato, figuriamoci una nazionalizzazione, come suggerisce invece un SMS di un ascoltatore. Nessuno invocava aiuti di Stato, si sta semplicemente chiedendo ad Andrea Malan se la sua impressione era che la Fiat stesse puntando a qualcosa di questo genere, come del resto avvenuto per esempio in Serbia, comunque condizioni più favorevoli per un'azienda che vuole investire. Ci scrivete anche: scusate, ma la Fiat non è un'azienda privata, allora deve poter costruire dove conviene. Nel Regno Unito le fabbriche di auto aprono grazie ad una tassazione favorevole. A scrivere questo messaggio è Loris. Senza dubbio, trovare un luogo con una tassazione meno favorevole dell'Italia è difficile. È il momento della borsa. Paolo Paronetto, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Quadro ampiamente positivo, la Federal Reserve ha fatto il suo dovere, forse addirittura più del suo dovere, per quanto riguarda i mercati, mi sembra di capire. Esattamente, secondo alcuni osservatori l'intervento della Fed è anche più deciso di quanto fosse nelle previsioni. Oggi le borse europee hanno festeggiato proprio la decisione di estendere la previsione dei tassi zero fino a metà 2015 e la nuova tornata di acquisti di titoli legati ai mutui finché il mercato del lavoro americano non migliorerà. La Fed ha annunciato acquisti fino a 40 miliardi di dollari al mese, appunto per un tempo imprecisato, quindi senza fissare limiti temporali. Il mercato ha apprezzato queste misure, gli operatori oggi sembrano convinti che la Federal Reserve sosterrà l'economia americana, costi quel che costi, infatti hanno guadagnato terreno soprattutto i settori più ciclici, cioè quelli legati appunto alla congiuntura economica, a partire da auto, costruzioni e materie prime. Questo il quadro generale. Come al solito in Italia le banche risentono di un buon andamento dal lato, e questa è una cosa che riguarda più strettamente noi, più strettamente l'Europa, un positivo andamento dei rendimenti dei titoli di Stato. Sì, esattamente. Le banche... Cioè positivo, che in questo caso vuol dire negativo naturalmente. Però esattamente. Lo spread tra i decennali italiani e tedeschi è sceso oggi a 330 punti base, quindi sul mercato azionario gli ordini di acquisto hanno premiato in generale i titoli delle banche, con l'unica eccezione sul FTSE MIB del Monte dei Paschi di Siena, che comunque ha limitato le perdite a mezzo punto percentuale. Quindi sì, anche in questo caso l'annuncio della Federal Reserve che ha portato ottimismo sul mercato, quindi un aumento della propensione al rischio insieme alla discesa del differenziale sui rendimenti dei titoli di Stato ha premiato il comparto bancario. Questo appunto per quanto riguarda il comparto bancario. Ti porterei adesso sulle singole storie. Inizierei dal titolo migliore sul listino, che è in questo caso Mediaset, un guadagno del 6,15%. Come mai? In questo punto clima positivo, poi ricordiamo che il settore editoriale è in fermento da un po' per notizie varie, e oggi è arrivato il giudizio positivo degli analisti su Barclays proprio su Mediaset. È stato alzato l'obiettivo di prezzo sul titolo a 1,6 euro, ma Mediaset è già oltre. Ma la cosa positiva è soprattutto che gli analisti della banca d'affari hanno prospettive positive o comunque meno negative di quanto stimato in precedenza sulla controllata spagnola Mediaset e Spagna. In particolare si prevede che dal 2014 possa recuperare finalmente la raccolta pubblicitaria dopo un 2012 visto ancora in forte calo. La raccolta è stimata in calo del 13,5% e un rallentamento della caduta per l'anno prossimo a meno 2%, e poi dal 2014 un andamento positivo. Questo ha premiato il titolo Mediaset, che appunto ha fatto segnare la migliore prestazione sul FTSE MIB con oltre più 6%. Mediaset è più o meno sullo stesso livello ST Microelectronics, più 6,11%. Sì, ST ha annunciato ieri sera che il nuovo piano strategico vedrà la luce a dicembre. Gli operatori e gli esperti del settore aspettano da tempo l'annuncio della nuova strategia di ST, che ha varato appunto una fase di rilancio, e soprattutto per capire cosa ne sarà della joint venture con Ericsson, ST Ericsson, che da tempo è appunto un po' la cartina di tornasole per l'andamento delle azioni del gruppo. Quando la joint venture annuncia risultati negativi il titolo soffre, e altrimenti invece una sorpresa positiva viene premiata dalla borsa. La società italo-francese ha annunciato anche un riassetto al vertice con nomine nei posti di comando, e tutto questo ha messo il titolo sotto i riflettori, che ha fatto oggi più 6,11%. Allora, ti voglio portare anche su Eni, altro titolo importante. Ieri la Cassa Depositi e Prestiti ha collocato l'1,7% del capitale, operazione naturalmente conclusa con successo. Anche di questo beneficia il titolo oggi, più 4,18%. Sì, esattamente. Il ragionamento è che nonostante la cessione sia avvenuta a un prezzo inferiore agli attuali costi di borsa, quasi un euro al di sotto, il mercato premia il buon interesse suscitato sul mercato dalle azioni Eni, in particolare l'interesse citato ad esempio da Sole 24 Ore dei fondi sovrani arabi, anche in vista di un nuovo collocamento di azioni da parte della CDP che è atteso nei prossimi mesi. La CDP infatti dovrà vendere un altro 1,6%, e ovviamente il buon riscontro avuto da questo primo collocamento fa ben sperare per il prossimo. Inoltre tutte queste cessioni di quote fanno parte del progetto di separazione tra Eni e Snam, quindi erano ampiamente prevista dal mercato. Con la cessione di ieri si è ridotto del 50% il monte di azioni che attende di essere messo sul mercato, quindi anche questo rischio per il titolo si è dimezzato, e quindi oggi il mercato festeggia anche questo e premia il titolo Eni anche per questo. Il titolo ha fatto più 4,18 a 18,7 euro. In ultimo ti chiedo invece di un titolo che è andato male, è il peggiore sul FTSE MIB, Telecom Italia. Telecom Italia sì, ha fatto registrare un calo dell'1,2%, ieri la società ha collocato un bond da un miliardo con un rendimento, un costo del debito del 4,57%, inferiore a quello medio del finora del 2012, quindi una notizia tutto sommato positiva. Ieri c'è stato anche l'annuncio però dell'avvio da parte dell'autorità antitrust di una procedura per un'istruttoria per un'eventuale intesa tra Telecom, Vodafone e Wind. Questo è un elemento di incertezza che in una giornata come oggi ha un po' offuscato l'andamento del titolo. Naturalmente. Grazie Paolo Paronetto di Radio Corriere Il Sole 24 Ore per essere stato con noi. Buonasera. Un quadro finale di giornata vede anche in positivo Mediolanum un più 5,9, Prismian più 5,17, Fiat Industrial che guadagna 5 punti percentuali, Azimut il 4,9. Come avete visto ci sono due titoli del risparmio gestito tra i migliori, quindi giornata particolarmente positiva da questo lato. Bene le banche, Popolare Emilia Romagna più 3,6, Pirelli più 3,3, UBI Banca più 2,7, ma bene, come si diceva, anche i titoli cosiddetti ciclici, insomma quelli anche un po' più industriali, per esempio Buzzi Unicen guadagna il 3,3%, Tenaris più 3,04, bene Generali 2,5 punti percentuali, Mediobanca che guadagna il 2,3, Finmeccanica più 2,29 dopo aver perso ieri naturalmente, Enel più 2,23%, la Popolare di Milano più 2,18, Fiat infine più 2,15%, da darvi anche Unicredit più 1,62%, Intesa San Paolo 1,5 punti percentuali. E dunque veniamo a parlare dei bilanci delle regioni. Da un punto di vista particolare, insomma, non entriamo proprio nel dettaglio dei bilanci naturalmente, però in tutta questa terribile furia anti-parlamento, anti-ministeri sulla necessità di tagli alle spese, è sempre rimasta un po' sotto traccia la questione delle regioni. Cosa è successo? È successo oggi, la cronaca di oggi ci racconta che c'è stata un'acquisizione di documenti presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza sta cercando documentazioni sull'inchiesta sulla gestione dei fondi del PDL che vede indagato per peculato l'ex capogruppo del PDL alla Regione Lazio, Franco Fiorito. Il fronte politico, insomma, è inutile che ve lo racconti, Fiorito si è sospeso, si sta valutando se insomma, mandarlo via dal PDL, questa sarebbe la richiesta della Presidente Polverini. Detto ciò, non è questo il punto, è quello che rimane sotto traccia quando facciamo delle battaglie contro la casta del Parlamento. Saluto Pier Francesco De Robertis, che è responsabile della redazione romana del Quotidiano Nazionale e autore della Casta Invisibile delle Regioni, Rubettino editore. Pier Francesco, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Libro il cui primo capitolo non a caso è dedicato proprio alle assemblee regionali e guarda caso il terzo paragrafo si intitola Il super consiglio laziale. C'è qualcosa che in questa, appunto, in questa furia contro la casta del Parlamento, della Camera e del Senato, contro i ministeri che spendono troppo, che ci è sfuggito tra le dita, forse, Pier Francesco? Ma guarda, io ho voluto intitolare il libro La casta invisibile, perché proprio come sottolineavi giustamente tu, ce la prendiamo sempre noi giornalisti per primi, quanto guadagnano i deputati, quanto guadagnano i ministri, e molto spesso passa un po' sotto traccia, inosservata, questa grande casta ramificata su tutto il territorio nazionale, non solo dei consigli regionali, che ricordo costano quanto la Camera dei Deputati, ma di tutta quella serie di fiumi, di rigagnoli che alimentano la grande casta della classe politica territoriale, al nord come al sud, al centro, una casta ramificatissima che spesso si nutre a volte anche di poco, perché si distribuiscono prebende piccole ma grandi ma anche piccole, però insomma si alimenta il ventre molle della politica italiana, questa che spesso ci passa un po' inosservata. Sotto silenzio. Poi, quando succedono queste vicende come come sta accadendo nel Lazio, ci rendiamo conto che parliamo di numeri molto molto importanti. Ecco, esatto, per Francesco, io ti chiedo innanzitutto di aiutarci a capire qualcosa, di fornirci qualche numero, qualche macro numero, se lo hai. Guarda, i consigli regionali costano un miliardo di euro, è una cifra enorme. Se noi pensiamo che quando c'è stata la riforma delle pensioni, il problema degli esodati non si è tolto per qualche centinaia di milioni perché non si riescono a trovare, insomma, ci rendiamo conto di qual è quali sono i termini di grandezza. Io avevo chiamato nel libro il super consiglio laziale perché il consiglio del Lazio costa 102 milioni di euro quanto costa quello dell'Emilia Romagna, della Toscana e della Liguria messi insieme, perché poi quando si parla di regioni la cosa fondamentale, cosa che io ho fatto nel libro, è poter confrontare, perché dire che un consiglio regionale costa 30 milioni o 40, bah, è tanto, è poco, ma non so, importante, quello che ci aiuta a renderci conto di che cosa sta succedendo è il confronto, no? Se tu prendi una regione, ne prendi un'altra che ha lo stesso, più o meno lo stesso numero di abitanti, lo stesso numero di province, la stessa grandezza, dici ma perché questa costa 5 e l'altra 10? Ecco, nelle regioni, cosa che nel libro viene approfondita, è importante poter confrontare l'una realtà con l'altra, e il Lazio da questo confronto esce ampiamente sconfitto, come dire. Basti pensare che il Consiglio regionale della Campania, e la Campania, come dire, sappiamo che non è mai un termine di paragone di virtù, no? Questo lo dicono i numeri, non lo dico io, costa molto di meno, costa 80 e rotti milioni di euro. Il Consiglio del Lazio è veramente al di là di tutto, c'è solo la Sicilia che lo batte, e lì sono anche loro dei record, ma insomma. Naturalmente, ecco, questo anche, per rispondere a chi ci dice che quando si tratta di bastonare il PDL non ci fermiamo, come sapete non è assolutamente così, e gli ascoltatori lo sanno. La cassa è proprio ramificata e stratificata non solo ad ogni livello politico, destra, sinistra, centro, ma anche a livello geografico, cioè non è che al nord, al sud va molto peggio che al nord, voglio dire, perché i numeri peggiori ce li ha la Valle d'Aosta, insomma, no? Che in genere passa per la regione, la Valle d'Aosta, i costi della politica sono esorbitanti, sono mi sembra 154 auto blu, il doppio, il triplo di una regione normale. La Valle d'Aosta, parliamo di una regione di 120.000 abitanti, come non so, un quartiere di Roma, sì, o di Milano. Beh sì, Pier Francesco, aiutaci a fare qualche esempio di dove questi rigagnoli, di quali sono questi rigagnoli nei quali si disperde denaro pubblico. I consigli regionali, che sono proprio quelli che conosciamo, il presidente, i consiglieri. Poi ci sono all'interno delle assemblee regionali tutta una serie di cariche e carichette che vengono anche queste distribuite. Queste sono veramente invisibili, che anche gli addetti ai lavori, noi giornalisti, non le conosciamo. Il garante per i detenuti, il garante per l'infanzia, il garante per le pari opportunità, il comitato regionale dell'economia e del lavoro, la commissione delle autonomie locali, ecco, tutta questa serie di cose che sono degli uffici, sono delle cariche, il consigliere diplomatico del presidente della regione, oppure ci sono le mille nomine che si fanno nei CDA di tante partecipate da parte delle regioni, spesso con società hanno poco a che fare con il fine istituzionale della regione, no? Che la regione, l'istituzione mantiene al fine di poter nominare tizio nel CDA 10.000 euro all'anno, 20.000, 30.000, tutto per distribuire questa grande abbuffata di soldi che a volte sono spesi bene, perché ci sono società regionali o partecipate delle regioni che sono utili, ci devono essere perché sono società importanti, ad esempio negli aeroporti, nelle fiere, nelle autostrade, no? Le regioni hanno partecipazione, e altre volte ti chiedi perché una regione deve avere una partecipazione nella centrale del latte, oppure nelle terme, oppure in un campo da golf, oppure tanti altri, nello zuccherificio. Perfino in un campo da golf? Sì, sì, la Toscana fino al 2011 ha deliberato la vendita, ma non credo siano ancora riusciti a venderle. Ha una partecipazione in un campo da golf, ecco, insomma, non so, sarà importante però. Questo è per dare la misura. Grazie a Pierfrancesco De Robertis, responsabile della redazione romana di Quotidiano Nazionale, autore della Casta Invisibile delle Regioni, Rubettino editore, su Fiorito, l'ex capogruppo del PDL nella regione Lazio, ci dite non sono delle cose già accertate ma solo indagini dovranno verificare. Perfetto, chiarissimo, lo sappiamo bene. E ancora, ma noi cittadini cosa dobbiamo fare per bloccare le continue ruberie di questi politici? Magari votarne degli altri, per esempio. Ed è tutto per questa puntata di Focus Economia, grazie ad Alessandro Chiappini in regia, grazie a Barbara Bianchi in redazione e a tutti voi per l'ascolto.